Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Well, there was this movie I seen one time about a man riding across the desert, and it starred Gregory Peck. Quando ho finito di leggere questo romanzo, ho pensato: quel geniaccio di Alessandro Robecchi riesce a descrivere la società e tutte le sue contraddizioni molto meglio di qualsiasi saggio, e lo fa naturalmente, come sempre, attraverso i suoi noir. Noir di cui sono protagonisti, li ricordiamo, non dico in ordine di apparizione, ma quasi come una squadra calcistica. Allora c'è Carlo Monterossi, autore televisivo che suo malgrado si trova a collaborare alle indagini del suo amico Oscar Falcone, che di professione fa l'investigatore privato. Spesso, anzi sempre, i casi su cui indaga Oscar Falcone come investigatore privato si intrecciano con dei casi che segue normalmente la polizia, ossia i sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella. Quest'ultimo romanzo si intitola I tempi nuovi ed è pubblicato, come tutti gli altri, da Sellerio. Più che in tutti gli altri romanzi, in questo secondo me si vede proprio la critica, l'ironia, la sagacia di Alessandro Robecchi applicata appunto alla società che ci circonda. E infatti non è un caso che il romanzo si intitoli I tempi nuovi. Alessandro, allora, in questo romanzo tu hai voluto mettere in evidenza proprio i cambiamenti della società, soprattutto attraverso gli occhi di due personaggi. Per esempio, prima vediamo la sovrintendente di polizia, Agatina Cirrielli, che decide di abbandonare appunto la polizia perché sente che i tempi sono cambiati, non le piace più l'atmosfera che si respira anche all'interno del corpo della polizia. Che cos'è che la disturba? Ma dunque, è un personaggio che veniva dal mio libro precedente, e che Follia Maggiore, e che mi dispiaceva abbandonare, perché ogni tanto è così coi personaggi, si impongono loro, diciamo, e quindi me la volevo portare dietro. Però era anche un personaggio, diciamo, problematico, che insomma riflette su quello che ha intorno a lei, quello che succede intorno a lei, e insomma a un certo punto sente un certo disagio per una situazione in cui, il posto in cui lavora, cioè, e lavora anche molto bene, cioè la polizia insomma è molto maschilista, è molto, ci sono, lei subisce proprio anche dei pregiudizi, sì, insomma, sì, le solite battute pesanti, ci sono degli abusi, lei contesta un po' il fatto che insomma si sia molto morbidi con i grossi e molto duri con i piccoli, con i piccoli infatti delinquenti. C'è proprio un pezzettino che avevo sottolineato, dove tu le fai dire: chi fa il gradasso col nero che vende le finte Prada a 20 euro, che prende a calci in culo il ragazzino zingaro, credi che farà il duro uguale davanti all'avvocato del boss incravattato nella sua Porsche, uno che spende in un'ora quello che noi prendiamo in un mese? Insomma, lei sì, è infastidita, cioè, da questo. Sì, è molto infastidita. In più devo dire che per una questione, diciamo, di storia, insomma di trama, c'era Falcone che già dal libro prima cercava un socio, aveva addirittura chiesto a Ghezzi, ma Ghezzi è uno è troppo poliziotto, nato con la, troppo sbirro, e allora insomma la Cirrielli invece ha detto sì ed è passata dall'altra parte della barricata, che è la stessa barricata, comunque adesso fa il privato e prima faceva lo sbirro, ma insomma diciamo quindi, che insomma, l'istinto della società. Caccia è sempre quello, sì. Mettono in società appunto con Oscar Falcone. L'altro personaggio attraverso il quale in questo romanzo percepiamo, come dire, anche una sottile, velata critica alla società che ci circonda, è il famoso Monterossi, perché chiaramente lui è autore televisivo di quella che lui definisce la grande fabbrica della merda. Lui ha lasciato il programma, poi è ritornato, poi l'ha rilasciato di nuovo, inizialmente perché il programma molto pop che lui si era inventato, Lacrime, sulle storie d'amore eccetera, ha iniziato a occuparsi troppo di cronaca nera, e questo l'ha infastidito. Ma è una cosa a cui stiamo assistendo, ahimè, diciamo. No, perché quel programma del Monterossi, di cui lui insomma da cui lui trae molti vantaggi, insomma, servito, riverito, molto invidiato, era già una cosa che lui detestava da tempo. Figuriamoci. Gli amori squadernati davanti a tutti, nessun pudore, una vera pornografia dei sentimenti, già questo lo turbava parecchio. Negli ultimi tempi si è accorto che questa cosa è scivolata, come accade anche in natura, ahimè, verso la cronaca nera, per cui insomma, quando uno dice signora, il suo marito l'ha tradita, lo perdona, e siamo nel campo della volgarità, e va bene, possiamo sopportare, diciamo. Quando questa cosa scivola nel campo del dolore vero, cioè del delitto, signora, hanno sparato a suo marito, li perdona, è molto diverso. Eppure i meccanismi con cui viene giocata questa cosa sono identici, e questo Carlo, che ha un grande senso della giustizia suo interno, insomma, che non vorrei dirlo io, ma insomma è una brava persona. È una brava persona, ecco, si infastidisce, sì, insomma. Sì, si infastidisce molto, anche perché c'è la sua firma, diciamo, sotto, e quindi si infastidisce il doppio. Ecco. E infatti lo dice, la sua firma, dà un'idea di Carlo Monterossi. Lui tutte le volte che lo vede alla TV si sente male, poverino. E allora, però anche un po' peggio per lui. E il segno dei tempi che stanno cambiando arriva anche appunto dai grandi capi della grande fabbrica della merda, appunto di questo canale televisivo, perché lo chiamano e gli dicono sostanzialmente: fino adesso abbiamo, come dire, incrementato la paura, il senso di insicurezza dei cittadini, adesso gli dicono dobbiamo abbassare i toni. Sì, c'è un po' questo troncare, sopire, perché ora che la prateria è loro, diciamo così, non c'ha più senso incendiare la prateria, no? E la paura è un'arma difficile da controllare. Quando tu instilli la paura nella gente, ci uccideranno tutti, entreranno nelle nostre case, ci invadono, no? Poi dopo è difficile imbrigliarla, e quindi per prudenza adesso è il momento di troncare, sopire, un po', insomma, un po' di ottimismo, un po' di positività, nessuno ci ucciderà nelle nostre case, e quindi il Monterossi, come dire, da un certo punto di vista sì, è quello che vorrebbe anche lui, no? Una narrazione un po' più decente, però la motivazione per arrivarci è molto diversa. E infatti a un certo punto tu scrivi, cioè il capo di questa televisione, che dice a Monterossi: noi dobbiamo aiutare, dobbiamo favorire l'armonia e abbassare i toni. Basta con l'allarme, basta con la paura. Ora ci vuole un po' di fiducia. Noi, industria culturale, Monterossi, siamo noi, sa Monterossi, che decidiamo l'umore. È un po' sì, però, perché si parla è così, nel senso, si parla tanto della rete, dei nuovi media e della televisione che però detta gli umori. In Italia la televisione detta ancora molto gli umori. Se poi pensiamo che ha una fruizione quasi sempre anziana, quasi sempre di bassa scolarità, è anche molto facile indirizzare gli umori del paese, che poi sono proprio umori, no? Non sono linee precise, non sono idee di pensiero, è proprio un sentire del paese che diventa appunto impaurito, timoroso, spaventato dal futuro, anche avendone ben d'onde, perché insomma il futuro non ho sentito nessuno oggi che mi abbia detto il futuro com'è luminoso, insomma, quindi però è ancora la TV che indirizza, secondo me, molto, sì. La critica sociale non si ferma qui, perché secondo me Alessandro Robecchi è un acuto osservatore della realtà che ci circonda. Tutti i suoi romanzi, e anche questo, sono ambientati a Milano, e ne emerge una Milano che è fatta soprattutto di soldi, soldi, soldi, criminalità di altissimo livello e ancora soldi. Non voglio svelare, insomma, il meccanismo del romanzo, però effettivamente ne esce fuori una... Però c'è una Milano da bere, non lo so. Ma sì, quello è un retaggio che purtroppo ci portiamo dietro. Gli anni Ottanta non finiranno mai. Io stapperò una bottiglia quando finiranno gli anni Ottanta. Però effettivamente è così. È il centro ormai di anche della criminalità organizzata. I soldi chiamano soldi. Quindi una città ricca che funziona ha ovviamente un suo lato sotterraneo che noi non vediamo, che però intuiamo un po', che è tutto quel grande mercato fiorente, peraltro, di prostituzione, scommesse, droga, anche finanza sporca, insomma tutti gli affari illeciti solitamente capitano dove ci sono anche quelli leciti. Quindi c'è e si parla nel libro di una Milano sotterranea in cui circola tutto questo denaro, con delle varianti, nel senso ci sono quelli che lo fanno circolare, cioè i banditi grossi, ci sono quelli che tentano di raccattarne qualche bricio. I soldi sono al centro, perché i soldi per un paio di personaggi nel libro non sono solo soldi, sono anche un'opportunità di farsi davvero una vita nuova. un'altra vita, a un certo punto dice un personaggio del libro, che non è la macchina nuova, che non è un altro lavoro, è proprio un'altra vita da zero. Cambiare e proprio. Per fare questo ci vogliono molti soldi e quindi bisogna trovare qualcuno a cui prenderli, però qui mi fermo. No, qua ti devi fermare. Però ecco, io apro una piccola parentesi sulla trama perché non l'ho ancora detta. Dico semplicemente che all'inizio del romanzo si trova il cadavere di un ragazzo con i pantaloni abbassati, è in auto e con le mani sostanzialmente legate con delle fascette al volante. Da qui, insomma, Ghezzi e Carella dovranno indagare, mentre contemporaneamente Oscar Falcone viene assunto da una donna per indagare sulla scomparsa di suo marito. Poi chiaramente i casi a un certo punto della storia si incroceranno. Altro elemento di critica sociale fortissimo è quando tu metti in evidenza che ormai il confine fra le brave persone e le persone che commettono un reato è diventato sempre più labile. C'è la signora che dice: vabbè, ma se tutto sommato spaccio un po' di droga oppure faccio questa cosa leggermente illegale, però almeno sono tranquilla economicamente perché sono quasi al limite della miseria. Lo fanno tutti, perché lo no? Fanno quasi tutti, lo fanno, no, quasi, ecco, lo fanno tutti. Esatto, il problema è proprio questo. C'è, oltre a quel mare di soldi che abbiamo visto, c'è anche una zona, diciamo così, un po' grigia tra il legale e l'illegale, in cui la brava gente, insomma la gente normale, vedendo da anni farabutti che cadono in piedi, oppure vedendo delle ingiustizie o essendo rabbiosa per molti motivi molte volte fondati, sostituisce, come dice il mio poliziotto Ghezzi, sostituisce il perché no col punto di domanda, cioè sostituisce il punto, il di, domanda. No con il punto di domanda al perché no. Cioè, alcuni pilastri etici e morali fissi si stanno un po' sfarinando e noi vediamo sulla cronaca quel dettaglio lì che si cita nel libro en passant. Io l'ho letto proprio sul giornale in sede di cronaca, una nonna arrestata perché spacciava, che quando sono andati a arrestarla era persino stupita: ma perché? Ma lo fanno, che male faccio? Io così pago l'università dei nipoti. Confine. Non, cioè, si rendono più conto del confine, esatto. E questo perché anche ai piani alti della società quei confini lì sono stati un po', diciamo così, spostati, resi labili, spostati, ecco, resi labili, un po' come quando vedi una cosa un po' sfocata, no? Che quindi o di qua o di là, se sei ai margini non dovrebbe far differenza, invece la fa, lo dico per le nonnine, la fa la differenza, il carcere, sì, anche, esatto, sì, sì. Siamo vengono appunto a prendermi, nel penale, non fatelo, sì. Senti, caratteristica di Monterossi è quello di ascoltare costantemente Bob Dylan, in, sì, questo caso c'è una canzone, Brownsville Girl, che abbiamo sentito appunto all'inizio di questa intervista, perché insomma lui è affascinato da questa donna che deve cercare il marito e insomma, però si comporta bene. Sì, si comporta bene, continua la sua relazione insomma con la produttrice televisiva, con Bianca. Ma perché questa ossessione da Bob Dylan? Dunque, no, l'ossessione del Monterossi per Bob Dylan, lo dico sinceramente, è perché Monterossi poverino c'ha sempre queste malinconie, queste donne passate, quindi io volevo dargli un amore vero, vero, vero, vero, oh, gli ho dato il mio, Dylan, tienitelo, ecco. Ma c'è una cosa un po' più profonda, secondo me, che è che i poeti lo dicono meglio. Cioè, a che servono i poeti? A dire meglio di noi delle quello cose che proviamo, che proviamo, che sentiamo. Per cui tutte le volte che il Monterossi ha uno spostamento del cuore, diciamo così, si affida, sentiamo cosa ci dice Dylan, e in effetti i poeti secondo me servono a quello. Poi lui, sì, è affascinato da questa donna, naturalmente, che infatti è un po' molto fascinosa, però sfuggente, molto ambigua, e quella canzone di Dylan, Brownsville Girl, che lui scrisse con Sam Shepard, quindi è un film praticamente, parla di una donna che però sono due, che non si capisce bene dove finisce una, dove... Beh, che è perfetto sia per il Monterossi, perfetto insomma. Giusto per farvi capire, se ancora non conoscete il personaggio seriale di Alessandro Robecchi, ma insomma se già lo conoscete, per farvi godere l'atmosfera anche di questo nuovo romanzo, vi leggo proprio un piccolo brano per capire la filosofia del Monterossi. Asteroide o tsunami? Meglio tsunami. Crollo strutturale del palazzo o incendio? Meglio il crollo. Polmonite fulminante o andare a lavorare? Polmonite fulminante, non c'è dubbio. Carlo Monterossi sta valutando le sue aspettative per la giornata. È un personaggio veramente di, di un'ironia pungente. Non lo e facciamo sarcastico. Tutti. Non lo facciamo. A te non capita mai quando sono alla sveglia di dire no, perché adesso sì, non c'è l'inondazione. Ma no. Lui arriva a dire epidemia, sì, di peste nera o riunione con gli autori. Ah, non peste c'è dubbio, nera, ma non c'è dubbio. Sì, e anche questo dipende un po' anche dal blues del Monterossi, che come abbiamo detto, facendo un lavoro che diciamo così lo soddisfa molto economicamente dal punto di vista del riconoscimento, però lui odia, e quindi alzarsi alla mattina prima, comunque alle 9:30 abbondanti, cioè non stiamo parlando di... Però questo è proprio il suo modo di guardare la realtà. Sì, è il suo modo di guardare la realtà. Infatti più avanti, quando succede una cosa brutta, diciamo una seccatura, lui dice, ecco, così impari ad aspettarti cose buone da una giornata alla mattina. È meglio sempre essere pessimisti. Sì. Grazie allora ad Alessandro Robecchi. Grazie mille. Ora in libreria con I tempi nuovi, anche questo pubblicato da Sellerio. E per questo appuntamento breve con Il Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che l'appuntamento settimanale con Il Cacciatore di Libri è per ogni sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 15:30. Tutte le interviste agli scrittori sono disponibili in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.